Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, siamo ormai definitivamente in tempi di viaggi e allora vi segnalo un titolo che ci aiuta a viaggiare con la classicità, l'autrice Eva Cantarella. Il libro si intitola Ippopotami e Sirene, i viaggi di Omero e di Erodoto, è pubblicato da Utre, 342 pagine, 14 euro. Parlando del viaggio classico, automaticamente si pensa immediatamente a Omero, al viaggio di Ulisse, ma non c'è soltanto Omero e Ulisse, ancora più vicino a noi, alla nostra sensibilità, per la realtà del viaggio che viene descritto è quel, per esempio, di Erodoto, le cui storie ci fanno assaporare le prime cronache storiche di un viaggio. E nel libro troviamo quindi una descrizione del concetto di viaggio nelle opere dei due scrittori, nonché le riflessioni che questo concetto, il concetto di viaggio, hanno suscitato. Riflessioni di cui adesso parliamo con l'autrice. Buonasera a Eva Cantarella. Buonasera. Eva Cantarella, allora come comincia il mito del viaggio? Lei distingue tra il viaggio epico, quello che è stato illustrato da Omero, e il viaggio reale, autentico, come spostamento, quello illustrato da Erodoto. Che differenza c'è fra questi due viaggi? Il viaggio di Omero, appunto, siamo nel mondo del mito, è un racconto, Ulisse che ha fatto il famoso viaggio, non è mai esistito, è un personaggio appunto del mito che serve, naturalmente è uno dei protagonisti di queste storie di uomini e di dei che gli Aedi cantavano nella Grecia arcaica e che poi sono confluite nei poemi omerici. E data la funzione di questi canti orali, il viaggio altro non è che un mezzo, diciamo, il racconto, un racconto che serve anche a istruire gli ascoltatori. Siamo in un mondo preletterato nel quale ovviamente non c'è ancora la scrittura e quindi la trasmissione della cultura di un popolo, quale che sia, questo vale per qualunque popolo, non solo per la Grecia antica, avviene attraverso proprio la poesia orale ha questa funzione e quindi appunto dicevo il viaggio avviene in luoghi, tra l'altro inutile cercare di identificarli, sono sforzi assolutamente inutili, le basti dire che adesso per esempio c'è anche una teoria secondo la quale il viaggio si sarebbe svolto nel Mar Baltico, nella quale ovviamente io non credo assolutamente, ma per dire che ogni tentativo di individuarlo è, come dire, è anche un gioco divertente se vuole. Ci sono persino le crociere omeriche che vanno nei posti dove si suppone fossero vissute le sirene, che so io, ma non è un viaggio reale, insomma, ecco. Mentre Erodoto è il primo che racconta veramente un viaggio suo, un viaggio nel senso di spostamento nello spazio di cui possiamo, sia pure con fatica, seguire l'itinerario. Lei a un certo punto, rimanendo all'Odissea, scrive che i rapporti con gli altri qui sono un pretesto. Che cosa significa questo? Beh, i rapporti con gli altri servono a mettere il greco che ascolta, sono i greci che ascoltano, di fronte a situazioni che servono a insegnare qualcosa. Per esempio, la storia del ciclope è un pretesto per spiegare come chi non vive in una polis, perché il ciclope non riconosce un'autorità sovraordinata a quella, i ciclopi hanno una famiglia, non è che vivono da soli come noi, magari spesso uno pensa al ciclope come un solitario, non è un eremita, i ciclopi avevano famiglia, ma il problema è che, come dice Omero, ognuno fa legge solo alla sua famiglia, perché non si cura degli altri, quindi praticamente, e poi dice non hanno assemblea, non hanno leggi, non riconoscono la polis, e quindi l'incontro con l'altro serve a spiegare come chi non ha la polis è inferiore, praticamente, anche se non c'è la parola, un barbaro. E lei della politica parla soprattutto quando affronta proprio Erodoto? Sì, parlo anche di questo, perché io affronto Erodoto, ma c'è la prima parte del libro, cerco di spiegare perché non mi sono occupata di Omero, perché il primo pensiero, devo dire anche a me, quando mi hanno detto parla del viaggio, il primo pensiero che ti viene è Ulisse, naturalmente, appena ci si ragiona un momento, perlomeno dal mio punto di vista, si capisce che non si può parlare, quando si intende parlare di viaggio nel senso vero, reale del termine, l'Odissea non va bene. Adesso le faccio ascoltare una canzone che lei stessa cita nel suo libro e poi ce la commenterà. The real history It ain't a mystery, just hitting the fake reality. Because real is reality, individuality, not something from corporate salary. Athena was black if you look back, cantano gli Alma Megretta. Perché ha trovato questa citazione? Beh, dunque, questa citazione in quel libro è legata al racconto di un libro famoso che si chiamava Black Athena. Fu pubblicato negli ultimi decenni del secolo ormai scorso da un certo Martin Bernal, che scrisse che in realtà tutto quello che noi riteniamo merito dei greci, quando parliamo dell'eredità nostra Grecia, greca, del fatto che tutto quello, la civiltà occidentale nasce in Grecia e grazie alla Grecia, e beh, secondo Bernal tutto questo non è vero, perché i greci altro non avrebbero fatto praticamente che, non dico copiare, ma molte volte lui parla proprio di copiare letteralmente, no? In caso di alcune opere letterarie, ma a trasmetterci invenzioni che vengono invece dall'Oriente. Tutto questo è una polemica contro l'eurocentrismo, giustamente, una polemica più che giusta, perché una volta si parlava, come tutti ricorderanno, del miracolo greco. Sembrava che improvvisamente, in un mondo dove la civiltà quasi non c'era, ad Atene fosse nato tutto, dal Partenone all'epoca di Pericle, no? La scienza, la letteratura, la filosofia, l'arte, il famoso miracolo greco. Evidentemente era appunto l'eurocentrismo, è così evidente che non c'è bisogno di insistere. Da molto tempo ormai, all'epoca di Pericle, c'erano molti rapporti con l'Oriente, perché le civiltà orientali sono molto più antiche ed erano molto più avanzate di quanto non si pensasse a quel tempo. E i greci, c'erano molti scambi che andavano in varie direzioni, non erano solamente gli orientali che imparavano dai greci, ma anche i greci che imparavano dagli orientali. Si è visto per esempio che gran parte della mitologia greca, non dico tutta, ma parte della mitologia greca, a corrispondenza corrisponde a opere mitologiche orientali. E quindi Bernal appunto eccede in questa cosa, ma vuole dimostrare che, addirittura Bernal dice che persino Socrate era nero, ecco, Atena sarebbe stata una dea egiziana, nera naturalmente, una tesi assolutamente assurda questo, ma che ha avuto un successo enorme, e comunque è servita perché ha insegnato in fondo a molti, che non solamente a molti studiosi che ancora hanno legato le idee del miracolo greco, ha insegnato, ha fatto capire l'importanza e il contributo dell'Oriente proprio anche alla cultura occidentale, alla nascita della cultura occidentale attraverso la Grecia. E gli Alma Megretta, evidentemente persone molto colte, hanno scritto questa bellissima canzone. Tornando alla differenza tra Omero ed Erodoto, lei a un certo punto sottolinea come Erodoto superi quel contrasto che per Omero si pone, diciamo, fra chi è greco e chi non è greco, e quindi è automaticamente un barbaro. Erodoto supera questa divaricazione così netta. Cominciamo col dire che nasce in una colonia asiatica, parte greco, padre e madre, uno greco e uno invece non greco, vive molto tempo, no, all'Ecarnasso, e poi intraprende questo viaggio appunto all'interno del continente asiatico e anche africano, nel quale incontra popolazioni diverse che chiaramente lui non guarda col sospetto con cui le guardano i greci. Lui commenta, descrive, ma non mai ci sono accenni a una superiorità dei greci rispetto a tutti gli altri. Per questo che io dico che è il primo, non solamente io, dico che è il primo antropologo, perché veramente lui viaggia per il desiderio di conoscere, di capire, descrive le usanze anche a volte più assurde che gli vengono riferite, poi le sue fonti sono anche i racconti che gli vengono fatti dai viaggiatori, da quelli che incontra, direi in modo molto neutro, molto pacato, a volte fa dei commenti e dice che non ci crede, ma insomma ha un atteggiamento radicalmente diverso a quello dei greci. Lei cita a un certo punto una figura che ha citato il Presidente del Consiglio qualche settimana fa, Telemaco. Che differenza c'è tra l'interpretazione sua e quella di Renzi di Telemaco? Ma no, Telemaco, Telemaco è un personaggio del quale adesso Renzi ha iniziato dicendo non si parla mai di lui, ma adesso è diventato di moda perché sta avendo un grande successo un libro che si chiama Il complesso di Telemaco di Recalcati, uno psicanalista. Io non discuto questo libro perché non sono un psicanalista e non so niente, però mi pare che sulla l'onda di questo rilancio del personaggio di Telemaco gli si attribuiscono delle caratteristiche che in Omero non ha. In Omero è un personaggio assolutamente insignificante, è un ragazzo che subisce le prepotenze dei proci fino a che Atena non lo induce, poi cerca di, lo aiuta in tutti i modi, lo induce ad andare a cercare notizie del padre, ma le va a cercare e non trova assolutamente niente. È uno, tra l'altro, anche con la madre ha un comportamento abbastanza strano, ogni tanto la tratta male. È un personaggio non particolarmente rimarchevole e l'unico momento nel quale poi appare come protagonista è quando Ulisse, che è tornato per i fatti suoi, con l'aiuto dei Feaci a Itaca, organizza la famosa strage dei Proci e lì aiuta il padre. Ma una volta terminata la strage, chi prende il potere poi è di nuovo Ulisse, giustamente. E perché tra l'altro a Itaca non c'erano regole dinastiche, quindi di Telemaco non si sa niente, non si sa neppure se l'ha preso poi successivamente alla morte di Ulisse questo potere. È un personaggio insignificante, insomma, ecco. Cioè, non mi meraviglio affatto che se ne parli poco, che se ne sia parlato poco finora, perché non merita questi discorsi. Senta, fra Omero ed Erodoto, chi consiglia di mettere in valigia chi si mette in viaggio quest'estate? Ah, Dio mio, tutti e due, in edizioni economiche e leggere, così non pesano troppo. Benissimo, grazie a Eva Cantarella, autrice di Popotami e Sirene e di Perfino Catone scriveva ricette, di cui parleremo adesso. Buona serata. Grazie, arrivederci. L'altro libro di Eva Cantarella, di cui ho appena accennato, è Perfino Catone scriveva ricette, i greci, i romani e noi. Questo è pubblicato da Feltrinelli, 216 pagine, 16 euro. L'autrice lo definisce un libro Lego, un libro senza note, perché tutti possono avere l'opportunità e il piacere di scoprire il mondo classico. È Lego perché è costruito con le rubriche pubblicate su Corriere della Sera, che sono una miniera di curiosità e di saggezza veramente poste alla portata di tutti. Mentre Telemaco, di cui abbiamo parlato sulla scorta dell'infatuazione del presidente Renzi, troviamo nel libro di Massimo Recalcati Il complesso di Telemaco, genitori e figli nel tempo della crisi, pubblicato anche questo da Feltrinelli, 152 pagine. Qui l'autore individua nel complesso di Telemaco la crisi dell'autorità simbolica del padre, un'autorità che, precisa subito Recalcati, non potrà certo ritornare. Ma perché adottare proprio Telemaco? Perché, scrive l'autore, la figura di Telemaco appare un punto luce, mostra l'impossibilità di separare il movimento dell'ereditare dal riconoscimento del proprio essere figli. Senza questo riconoscimento non si dà alcuna filiazione simbolica possibile. In questo senso, scrive l'autore, Telemaco è il contrario di Edipo. Edipo viveva il proprio padre come un rivale, Telemaco invece con i suoi occhi guarda il mare, scruta l'orizzonte, si emancipa dalla violenza parricida di Edipo, cerca il padre non come un rivale con il quale battersi a morte, ma come un augurio, una speranza, come la possibilità di riportare la legge della parola sulla propria terra. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Tra i tanti personaggi citati e presentati da Cantarella nel suo libro Perfino Catone scriveva ricette, troviamo anche Ovidio, il grandissimo poeta, di cui torna l'opera forse più importante, Le Metamorfosi, nella nuova traduzione di Vittorio Sermonti, pubblicata da Rizzoli con il testo latino a fronte, 838 pagine, 21 euro. Un titolo, quello di Ovidio, forse più noto che letto. Ma che cosa può darci oggi Ovidio? Nella sua efficace presentazione ce lo spiega proprio Sermonti, che si sforza di far prendere in mano il libro, che non mancherà poi di affascinare, ci avverte, perché, come ci spiega il curatore, Le Metamorfosi sono un libro sull'adolescenza, un dizionario mitologico dell'adolescenza che canta il corpo dell'uomo in mutazione, incarnandolo in figure letterarie. Sermonti ricorda anche l'ostilità che Augusto ebbe per Ovidio, il quale, aggiunge, amava Roma infinitamente. Ma la Roma che amava lui, scrive Sermonti, non era la Roma di Virgilio e tantomeno quella di Augusto. Di Augusto ricorderemo il 19 agosto il bimillenario della morte. In questa occasione e fino al 18 settembre ricordo che è in corso una ricostruzione storica ideata e condotta da Piero Angela e Paco Lanciano al Foro di Augusto. Le Metamorfosi di Ovidio si presentano in 15 libri, ciascuno dei quali è brevemente introdotto da Sermonti, e da questi 15 libri delle Metamorfosi vi propongo alcune righe che si riferiscono a uno dei miti fondanti della nostra identità, e cioè il mito d'Europa, la giovane principessa rapita da Giove che aveva assunto per avvicinarla le vesti di un torello. Assume l'aspetto di un toro, e mescolato alle mucche, muggisce trotterellando sull'erba tenera, splendido. Non è minacciosa la fronte, gli occhi non fanno paura, il muso irradia dolcezza. Stupisce la figlia di Re Agenore. Bello com'è, non è bellicoso per niente. Per quanto sia mite, però, lei non si azzarda a toccarlo, ma poi gli si accosta e porge un mazzetto a quel candido muso. Gode l'innamorato e, sognando ben altri piaceri, bacia quelle manine. Il resto a più tardi. E una volta scherza e saltella sul verde del prato, un'altra stende il corpo di neve sopra la sabbia rossiccia. Dissipato ogni timore, offre a quelle mani di vergine ora il petto da palpeggiare, ora corne da inghirlandare di fiori freschi. E arriva la principessa, non sa su chi stia montando, a montare in groppa al toro. E allora che il dio, pian piano staccandosi dall'asciutto della riva, comincia a stampare sull'acqua impronte di zoccoli finti e continua a inoltrarsi nel mare e porta la prigioniera al largo. Ha paura la piccola e, rigirata a guardare la spiaggia perduta, si tiene con la destra ad un corno, con l'altra alla groppa. La veste le rabbrividisce di brezza. E sulla civiltà romana vi segnalo il libro di uno storico britannico, John Percy Vivian Day Crebalsdon, morto nel 1977, che si intitola I Romani, cultura e vita quotidiana nell'antica Roma, pubblicato da Odoia, 298 pagine, 18 euro. Questo è un libro a più mani sulla civiltà romana, volto soprattutto a far emergere gli aspetti pratici e concreti che fecero la grandezza di Roma, dal diritto alle tecniche costruttive. Un'analisi però che non trascura i caratteri artistici e letterari, nonché le tappe principali nella storia, dalla fondazione al culmine dell'impero. Un grande studioso classico è stato Luca Canali, scomparso proprio poche settimane fa, di cui esce l'ultimo libro scritto con Lorenzo Perilli. Si intitola Pax alla Romana, gli eterni vizi del potere, pubblicato da Giunti, 196 pagine, 14,90 euro. Questo è un libro particolare perché si tratta di un'antologia di brani di autori classici, in particolare Giovenale, commentati dai due autori con un occhio all'autorità, commentati in pochissime righe. Quello che ci presentano Canali e Perilli è un mondo straordinariamente attuale, perché essi stessi spiegano nella caratterizzazione viva e pungente, sarcastica e beffarda di ambienti e persone che popolano l'opera storica e satirica degli scrittori più rappresentativi della cultura romana del primo secolo, il lettore troverà riflessi gli aspetti, i modi, il carattere della nostra società contemporanea. E per testimoniare questa capacità vi propongo alcune righe dello storico Cassio Dione col commento che ci spiega come nasce la spesa pubblica. Fece cadere in teatro sulle teste degli spettatori gettoni validi per ricevere denaro, vestiti e altri oggetti. E fece collocare in mezzo alla gente molti generi alimentari, in modo che ciascuno potesse prenderne a volontà. Il potente deve sempre accattivarsi il popolo. Il popolo può vivere senza i potenti, ma i potenti come potranno vivere senza un popolo su cui esercitare il loro potere? Così come il povero può vivere senza il ricco, ma il ricco, se non ha un povero di fronte al quale sentirsi ricco, dove troverà mai soddisfazione? Insomma, Canali e Perilli ci dimostrano che i classici sono sempre attuali, ovvero che gli antichi ci riguardano, come titola il suo ultimo libro Luciano Canfora. Questo libretto è pubblicato dal Mulino, 104 pagine, 10 euro. Canfora, un grande studioso dell'antichità classica, e qui denuncia la lunga e implacabile erosione degli studi classici, dovuta soprattutto ai ministri Berlinguer e Gelmini. Un'erosione che oggi riceve un'ulteriore accelerazione dalla paventata riduzione a 4 anni degli studi superiori. E allora allora Canfora esamina le ragioni contro lo studio classico, smonta queste ragioni e poi conclude che gli studi classici non vanno garantiti perché, come si dice spesso banalmente, danno un metodo o trasmettono valori, ma piuttosto, scrive Canfora, perché i loro problemi, quelli che loro non sono stati in grado di risolvere, sono ancora i nostri. E quali sono questi problemi? Canfora li enumera, a partire dalla questione delle questioni. La competenza come premessa per l'accesso alla politica è un requisito fondamentale e indispensabile, un problema che già aveva posto Socrate, ma poi anche il rapporto libertà-schiavitù, o meglio sarebbe dire libertà-dipendenza. Insomma, conclude Canfora, non è più tempo di rimirare gli antichi. Dire che sono belli, interessanti e formativi è vero, ma non basta. Scrive Canfora, bisogna interrogarli sulle questioni cruciali che si tentarono di avviare a soluzione, quasi mai riuscendoci. È in questo senso che non è retorica dire che essi sono tuttora dentro di noi e che hanno il merito di non aver scelto la via consolatoria. Ci insegnano a scartare le risposte facili e le facili consolazioni e auto-assoluzioni. Lo stesso Luciano Canfora ha pubblicato recentemente un altro libro che ci porta nel cuore dell'Atene classica, La crisi dell'utopia, Aristofane contro Platone, pubblicato dalla Terza, 438 pagine, 18 euro. Si parte qui da una commedia di Aristofane, una commedia molto celebre, Le donne all'assemblea popolare, che secondo l'autore, ma anche secondo una lunga tradizione, rappresenta un attacco del grande commediografo alle teorie politiche di Platone. E come spiega Canfora, il vero colpo di genio della commedia consiste appunto nel mettere in crisi, mostrandolo inattuabile, la costruzione platonica, passandola nelle mani delle donne. Il tema è tutt'altro che peregrino, perché Aristofane non vuole imporre con la sua commedia un suo modello politico alternativo a quello di Platone, ma pone una questione che è tuttora vivissima, una domanda che per secoli ha condizionato la vita politica fino ai nostri giorni, possiamo dire. E infatti lo stesso Canfora spiega che conclude la sua presentazione con una domanda: i fallimenti liquidano l'utopia o l'utopia resta un bisogno morale al di là del naufragio? E la demonizzazione fin troppo facile dell'utopia in politica ovviamente, non diviene un alibi per blindare in eterno la conservazione e l'ingiustizia? Ma sentiamo come Canfora trascrive la commedia quando questa prende di mira il programma utopistico di Platone e per prenderlo in giro, per così dire, sentiamo questo. Le donne hanno preso il potere e questo sarà il loro programma. Tutto deve essere comune a tutti. Non si deve accettare che uno abbia tanta terra e un altro neanche quel minimo indispensabile per essere sepolto. Ma non solo la terra. Ogni altra forma di ricchezza deve essere messa in comune, anche i capitali. Dunque, ricchezze mobili e immobili. Con grande dolore di Blepiro, ateniese tipo, Prassagora chiarisce subito che ciò comporterà la fine di tutta l'attività processuale, di norma lucrativa per i peggiori. Una obiezione di comodo di Blepiro, ma se uno vuol far regali a una ragazza per poterla sedurre, come farà? Consente a Prassagora di spiegare che non ci sarà bisogno di rubare alcunché, perché non solo tutto è di tutti, ma anche le donne saranno in comune. Qui si produce la maggiore novità, che costituisce un imprevisto capovolgimento rispetto alla Repubblica di Platone. Non solo ogni uomo potrà accedere alla donna che vorrà, ma anche ogni donna potrà accedere a chi vorrà, in forza della legge ormai instaurata, secondo cui chi vuole avvicinare una bella dovrà soddisfare prima le brutte. Ed anche per gli uomini varrà analogo criterio. Dovranno passare prima i brutti, quand'anche scimmieschi. I testi di Aristofane, compreso appunto Le donne in Parlamento, sono pubblicati da Rizzoli. Agli appassionati della storia classica segnalo poi la biografia di un grande imperatore, Diocleziano. Questo libro è scritto da Umberto Roberto, pagine 388, 24 euro, pubblicato da Salerno. E se andate o siete andati in queste settimane estive a Spalato, avrete certamente visitato le vestigia del grande palazzo che diede il nome alla città che vi sorse intorno, Split, che viene appunto da Palatium. Diocleziano era nato da una famiglia di origine molto modesta. questa aveva un altro nome, Caius Valerius Diocles, un nome che poi da imperatore romanizzò perché il nome tradiva la sua origine greca. Sarebbe stato imperatore Diocleziano dal 284 al 305, quando con una decisione sorprendente e che rimase unica nella storia dell'impero, decise di abdicare. Proprio la modestia della famiglia spiega, secondo molti osservatori, il culto quasi divino che si fece tributare da vivo. L'imperatore fu una figura importante nella storia dell'impero, anche se discussa. Fu lui che decise di dividere la leadership imperiale nella tetrarchia, che diede nuova linfa alle persecuzioni anticristiane, e qui probabilmente subì lo smacco maggiore, perché, come scrive l'autore, nonostante i suoi sforzi e quelli dei suoi più solerti seguaci, Diocleziano uscì sconfitto dalla battaglia contro i cristiani e con lui uscì sconfitto il mondo che cercava di salvare. Si occupò anche di economia con un provvedimento che è rimasto famoso nella storia dell'economia anche per la sua quasi assoluta inutilità, e cioè l'editto dei prezzi, con il quale nel 301 cercò di bloccare l'inflazione con un lunghissimo calmiere che venne pubblicato in tutto l'impero, che stabiliva i prezzi massimi dei beni di maggior consumo. Insomma, qui troviamo un ritratto efficace di un uomo contraddittorio, ma anche di una fase decisiva della trasformazione di Roma. E a questo punto il confettino. Restiamo nella Roma classica con il libro di Elisa Castiglioni Giudici, illustrato da Ilaria Urbinati, Le stelle brillano su Roma, è pubblicato dal Castoro, 186 pagine, 13,50 €. Nell'urbe di Traiano si svolgono le avventure di Iris, una ragazzina popolana che con Aureliano riuscirà a difendere la libertà della propria famiglia. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto di Corrado Passera, ex banchiere ed ex ministro, il libro Io siamo, insieme per costruire un'Italia migliore, pubblicato da Rezzoli, 214 pagine, 15 €, nel quale Passera lancia il proprio manifesto per la riforma dell'Italia. Poi segnalo alcuni titoli appartenenti a dei generi adatti all'estate. Il primo è il genere fantasy, è uscito il quarto volume della saga di Aern, La danza dello spettro di David Delgish, tradotto da Stefano Massaron per Fabbri Editore, 236 pagine, 12,90 €. Poi vi segnalo un giallo di Claude Isner, che è lo pseudonimo comune delle sorelle Liliane Corbe e Laurence Lefebvre, scrittrici e libraie, autrici del personaggio di Victor Legris. Vi segnalo il libro La casa abbandonata di Rui Convisare, pubblicato da Tea, tradotto da Mara Don Petra, 184 pagine, 14,90 €. Il protagonista è un libraio e investigatore di Parigi. E poi vi segnalo un giallo storico di Marcello Simoni, che è un bibliotecario e archeologo. Si intitola L'abbazia dei cento peccati, pubblicato da Newton Compton, 336 pagine, 9,90 €. Questo è un libro ambientato nel 1346 con protagonista una reliquia misteriosa che fa gola a troppe persone. E con questo ringrazio Lorenzo Nespoli in redazione, Paolo Corleone in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, il nostro sito www.radio24.it, nel quale potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro un buon Ferragosto, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domenica prossima.